Letture di Radio 24. Un recente studio del CNEL fotografa il fenomeno migratorio verso il nostro paese non come nuovo e imprevisto, ma diventato ormai strutturale e continuo. Dallo studio emerge infatti che le seconde generazioni, ovvero i figli dei primi immigrati arrivati a cavallo tra gli anni 80 e 90, sono, per abitudini e stile di vita, molto vicini ai giovani del nostro paese. L'Italia multietnica è un'Italia per lo più fatta di disintegrati? Per rispondere a questa domanda e meglio capire in che direzione stia andando la nostra Italia, non c'è miglior termometro che testare proprio le nuove leve. Le seconde generazioni in rapporto ai loro coetanei italiani di origine. E allora ci pensa una ricerca del CNEL, curata dalla Fondazione Silvano Andolfi, a disegnare il ritratto di come si sta trasformando questo fenomeno non più nuovo, ma diventato più strutturale, grazie all'insediamento di un numero sempre maggiore di nuclei familiari. A leggere il nuovo studio viene subito smontato un luogo comune cui ci spingono le cronache attuali, che l'immigrazione sia solo un fenomeno emergenziale, rappresentato dai respingimenti, le difficoltà e la poca integrazione. L'Italia del domani, di queste nuove seconde generazioni, figli di immigrati nati o cresciuti in Italia, passa la prova e si presenta più sicura e salda che mai. Adolescenti integrati che sentono la società italiana simile alla propria, anzi, si spingono oltre. Si riconoscono nella nostra società molto più dei loro coetanei italiani. Come dire, Samir sente l'Italia ancora più sua di un Giovanni o di un Antonio. Hanno molti amici, possiedono il cellulare, amano la musica, vestono alla moda e navigano su internet. Non vanno in discoteca, non fumano, non bevono, non si fanno le canne, non marinano la scuola e raramente fanno tardi la sera. Il loro rapporto con la famiglia è un punto e una risorsa fondamentale per la loro integrazione. Lo studio è stato realizzato su un campione di 751 adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni, di cui 414 di origine straniera e 337 italiana, reclutati all'interno delle scuole medie superiori. Ne emerge anche che la quasi totalità del campione è arrivato in Italia nella primissima infanzia dall'Europa dell'Est, dal Nord Africa e dall'Asia. È in prevalenza di religione musulmana. Le famiglie di appartenenza sono più numerose rispetto a quelle dei coetanei italiani. Per la maggior parte degli intervistati, proprio la famiglia è una risorsa per l'integrazione e nel 70% dei casi tutti i componenti parlano italiano anche in casa. La madre è nella maggior parte dei casi casalinga o lavora come collaboratrice domestica badante, mentre il padre è operaio. La seconda generazione afferma nella stragrande maggioranza dei casi di sentirsi vicina allo stile di vita italiano e i tre quarti del campione ritengono che la propria famiglia sia bene integrata in Italia, dove la società non è poi così diversa dalla propria. Gli italiani, invece, ritengono più degli stranieri che le proprie famiglie disprezzino la nostra società e sentono di non somigliarle. I giovani immigrati non hanno grandi difficoltà scolastiche, né denunciano enormi difficoltà di integrazione con compagni e insegnanti, ma sembrano non avere molta voglia di studiare. Sognano di aiutare economicamente la famiglia e trovare un lavoro stabile e sicuro, di andare a vivere all'estero e di frequentare l'università. Tuttavia, i giovani immigrati non sono molto ottimisti. Ben il 76,7% degli adolescenti pensa di non avere alcuna possibilità di cambiare il mondo. E anche in questo dimostrano di essere vicini ancora una volta ai loro coetanei italiani. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Seconde generazioni, radici italiane, di Karima Mual, dal Sole 24 Ore di domenica 3 aprile. Letture di Radio 24. Il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, querelò il giornalista Antonello Caporale, reo di aver detto nel corso della trasmissione Exit sulla 7 che il ponte sullo stretto era un'opera assurda, due piloni che affondano in due città cloaca. Il sindaco si sentì offeso e querelò, ma pochi giorni fa ha perso la causa. Chi pagherà? Torno a Roma, torno nella cloaca. Sospirò anni fa Silvio Berlusconi manifestando il suo disgusto per la capitale. Ce l'aveva con il Colosseo, i fori imperiali, il Gianicolo, il Pantheon o, peggio ancora, con gli abitanti della città eterna? No, ce l'aveva con una certa politica politicante che al suo naso meneghino, chissà se ripeterebbe quelle parole oggi, aveva allora un odore nauseabondo. Infatti l'allora sindaco capitolino, Francesco Rutelli, si guardò bene dal querelare. Non aveva usato parole dure lo stesso Luigi Pirandello nei Vecchi e i Giovani? Diluviava il fango e pareva che tutte le cloache della città si fossero scaricate e che la nuova vita nazionale della Terza Roma dovesse affogare in quella torbida, fetida alluvione di melma. Insomma, erano opinioni politiche. Giuseppe Buzzanca, il sindaco PDellino di Messina, rieletto l'ultima volta, nonostante fosse stato a suo tempo condannato e costretto ad andarsene dopo una cocciuta resistenza per aver abusato dell'auto blu, la pensa evidentemente in modo diverso. E appena il giornalista e scrittore Antonello Caporale osò dire a Exit sulla 7 che il ponte sullo stretto a suo avviso era un'opera assurda, perché esistono altre priorità e oggi rappresenterebbe solo due piloni che affondano in due città cloaca, si sentì offeso nell'onore suo, della sua città e di tutti i cittadini. Così, giurando di aver ricevuto più di 10.000 telegrammi di solidarietà di messinesi offesi, querelò Caporale chiedendo 1.000 euro di danni per ogni compaesano. Anche a nome di quelli come l'ex sindaco di centrosinistra, Franco Providenti, che al settimanale 109 disse: «Io non mi sento offeso da Caporale. Forse ha utilizzato un'iperbole forte, ma assolutamente reale». O addirittura dall'ex sindaco di destra Salvatore Leonardi: «La parola cloaca mi ha ferito, ma a sbagliare siamo noi che non abbiamo risolto tante annose questioni». Ma che? Furente di sdegno, Buzzanca coinvolse nella guerra giudiziaria anche il dirimpettaio, l'allora sindaco reggino Pino Scopelliti. Lui pure deciso a pretendere da Caporale, difeso dall'avvocato Caterina Malavenda, 1.000 euro per ogni cittadino ferito nell'onore. Esaminate le carte, il magistrato decise che non valeva proprio la pena di farci un processo. Archiviazione. Il termine cloaca è equivalente nella definizione per illustrare un ambiente corrotto, insano, degradato. C'è chi possa contestare, ad esempio, l'esistenza di baraccopoli senza fogne? Al che il sindaco peloritano, sempre più furibondo, volle andare fino in Cassazione. Ai ai, niente da fare neanche lì. Il verdetto di oggi rispetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. E chi paga? Il sindaco? Figurarsi. Il conto finirà a carico dei cittadini di Messina. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Il sindaco querela e il cittadino paga» di Gian Antonio Stella, dal Corriere della Sera di mercoledì 6 aprile. Il Fondo Unico per lo Spettacolo è stato ripristinato e il Teatro Italiano può tirare un sospiro di sollievo, osserva Giorgio Montefoschi, che allo stesso tempo però ha anche una proposta. Istituire un fondo unico per gli scrittori. Non per gli scrittori di sicuro successo, ma per quella pletora di non riconosciuti e non fortunati. Il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, è stato ripristinato. Grazie a Dio. E all'intervento di molteplici qualificate voci, non ultima per importanza quella del maestro Riccardo Muti, così abile e convincente con il ministro Tremonti, sicché possiamo tirare un sospiro di sollievo. I teatri e la musica continueranno a funzionare come prima. Lo stesso sarà per la produzione di tanti film di cultura e non dovremo assistere a lugubri cortei delle donne in nero. Insomma, un successo. Motivo per il quale, vista anche la fortunata circostanza offerta dalla sigla FUS, che può tranquillamente essere adottata per gli scrittori, fondo unico per gli scrittori, non sarebbe niente affatto male continuare la battaglia per questa categoria di operatori culturali. Insomma, i romanzieri, i saggisti, i poeti soprattutto. Perché il discorso, una domanda piuttosto, è semplice. Non sono artisti anche costoro? Certo, per scrivere un romanzo o una poesia o un bel saggio non occorrono troppi mezzi. Bastano un foglio di carta, una penna, una stanza ben riscaldata, come direbbe Simenon. E sicuramente per scrivere non ci si mette in frac, motivo per il quale l'indennità frac non sarebbe da pagare. Tuttavia, non è altrettanto vero che il saggista, il poeta e il romanziere in quella stanzetta riparata dalle intemperie passano una vita. Ma si potrebbe obiettare, una volta illuse altre osservazioni un po' più di bassa lega, tipo «chi glielo fa fare?». Tutti questi patiti della penna non fanno poi un altro lavoro? E chi l'ha detto? E quando anche fosse vero, perché dovrebbero farlo? Dunque, avanti con le rivendicazioni, avanti con le richieste di aiuto anche per gli scrittori. Certo, non di tutti, perché è chiaro che scrittori di sicuro successo come un Volo, un De Luca, un Moccia, un Faletti, di sussidi non hanno bisogno. Qui si parla dell'immensa pletora dei non riconosciuti, dei non fortunati, di quelli che verranno scoperti dopo la morte. Perché negare anche a loro il caloroso aiuto dello Stato? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Fondo Unico per lo Spettacolo e a scrittori e poeti chi ci pensa? Di Giorgio Montefoschi, dal Corriere della Sera, di martedì 5 aprile.